Slalom. Flashback. Su CRM Slalom, una trasmissione che vi terrà compagnia fino alle 12.45 in compagnia di Francesco Puglisi da questa parte e dall'altra parte della bella Patrizia Curreri. Salutiamo Simone e Filippo Brancato che già a partire da questa sera partiranno con la loro bella trasmissione Rock Revolution. Salutiamoli, sì, perché sono veramente in gamba e così via. Ma tu, a proposito di saluti, devi fare anche i tuoi belli saluti. Dimmi. Sì, un saluto speciale a un'amica alquanto speciale. non solo come persona ma anche per il lavoro che fa, e praticamente è la giornalista di Juventus Channel, il volto femminile, e la possiamo vedere per adesso dalle 8 alle 10 su Rai Sport, e presenterà anche gli speciali degli europei, e per l'occasione infatti la troveremo anche in copertina su Tele7. Sì, se questa è la persona veramente sì, perché ci sto facendo vedere a Francesco su Google. Veramente deliziosa. E il nome è Valeria Ciardiello. Salutiamo Valeria, ciao Valeria. Ciao Valeria, poi magari ci sarà l'opportunità anche di sentirla qua in radio, magari la potremmo chiamare un giorno. Ok, fra altre cose, a proposito di sentire qualcuno in radio, fra poco, intorno alle 10.30, 10.35, dopo gli spot alle 10.30, avremo ospite Lorenzo Avola, che è il nostro poeta, che ci farà sentire comunque una bella poesia e comunque parlerà di una sua esperienza avuta all'interno di Sanremo, proprio perché lui ha vinto il premio Casa Sanremo Writers. Ci faremo spiegare meglio da lui di che cosa si tratta. Continuiamo, sì, con la musica. E infatti questa è una canzone che voglio dedicare appunto a Valeria e spero che appunto nella vita le trovi il senso della sua vita. Bella questa. Sì. Vasco Rossi. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare

all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switch the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wish I go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. I'm at a 45, trying to go home on the change I spend on you. Where have the times gone and it's all? Speriamo di farcela perché abbiamo in diretta telefonica Lorenzo Avola, che è un poeta emergente siciliano, che ci parlerà di una sua esperienza avuto circa un paio di mesi fa all'interno del Festival di Sanremo. Ciao Lorenzo e bentrovato. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, ciao. Allora Lorenzo, ci vuoi parlare un attimino di questo premio che hai ricevuto all'interno del Festival di Sanremo, che era Casa Sanremo Writers, se non vado errato? Esattamente, sì. È stato un premio che mi hanno assegnato appunto all'interno della Kermesse Sonora, Canora, appunto il Festival di Sanremo. Sono stato premiato come vincitore della sezione poesia con una raccolta, con una mini raccolta di inediti. Inorgoglisce, perché comunque alla fine è un siciliano, un palermitano che vince comunque un premio in così importante. Un premio culturale. Sì, esatto, è stato, diciamo, dall'altra parte senti Patrizia Curreri, è coetanea tua più o meno. Perfetto, ok, ciao. Ciao. Sì, quindi sono stato a Sanremo durante i giorni del festival. Quindi una bella esperienza, hai conosciuto qualche artista? Sì, ho avuto modo di conoscere tutti gli artisti in gara, dal momento che ci sono momenti di condivisione prima della serata e post serata appunto del festival. E ho modo appunto di stare lì nel backstage, nelle aree un po'. Scusami se ti interrompo, ma sì. L'area che si respira all'interno del backstage, sì. Quindi prima di entrare sul palco, questi artisti che comunque sono preparati perché fanno concerti, affrontano comunque un enorme pubblico, è di paura, di stimolo, come la vivono questi artisti prima di entrare proprio sul palcoscenico? Diciamo che c'è molta competizione fra gli artisti in gara e non ho visto molta amicizia tra loro. Si potevano scannare, esattamente, sì. Soprattutto per gli artisti e le artiste più giovani c'era molta. Soprattutto le donne mi sembrano, sì, più agguerrite. Ad esempio la vincitrice era una abbastanza, ecco, acidella, se così possiamo definire. Si vede un po'. Sì, esatto. Una che comunque non le manda a dire, che ha le idee abbastanza chiare. Non le importa se questo va a scapito appunto degli altri, sì, partecipanti. E poi una persona che ho rivolutato molto è stato sempre Samuele Bersani, un ragazzo veramente in gamba. Però comunque si vede, Samuele Bersani è abbastanza pulito, sembra, sì. In viso. Cioè di Non montato, uno con i piedi per terra, uno che lo fa perché ci crede veramente, ecco. Questa è una cosa bella. Allora, parliamo comunque della tua poesia, di quella che hai presentato, che è stata comunque premiata e così via. Dimmi. Allora, io ho presentato appunto questa raccolta di 5 inediti dal taglio prettamente sociale, quindi i temi affrontati, ecco, sono rivolti a magari a un pubblico un po' più adulto e comunque vanno ad analizzare aspetti dell'attualità che che appunto ci colpiscono in prima persona, e quindi non so, ho trattato l'argomento della violenza, del terrorismo ad esempio a Roma nell'ottobre del 2011, quindi con gli scontri con i Black Bloc, oppure la mancanza di speranze e di progetti saldi per i giovani, quindi più che altro penso sia stato premiato questo impegno sul sociale con una materia come la poesia. Ho capito. Adesso, questa mattina, questo primo venerdì, e quindi questo primo nostro appuntamento, cosa ci farai ascoltare? Cosa ci hai preparato? Ecco. Sì, la poesia si intitola Sole Rosso di Maggio e fa riferimento alla strage di Capaci del 23 maggio. Ho voluto sceglierla come poesia della giornata anche per ricordare l'assurda morte della ragazza di Brindisi, solo perché si trovava appunto in una scuola intitolata a Falcone, e poi ecco, anche per cercare di non far passare nel dimenticatoio personaggi che hanno dato la vita per la nostra terra, per migliorarla. Senti Lorenzo, io comunque pure io ho scritto poesie nella mia adolescenza, infatti dicevo prima a Francesco, e tu quando ti viene di scrivere, quando hai l'ispirazione e magari hai qualche momento, oppure anche la musica ti accompagna in questa tua ispirazione, ecco. Allora, diciamo che per la non felicità dei miei genitori i momenti di ispirazione sono la notte. Ah, bene, strano. Uno perché spreco luce e due perché dormo poco. Comunque, solitamente ecco, la notte, perché dopo aver vissuto una giornata intensa o comunque con esperienze tra le più diverse, la notte ecco, arrivo a razionalizzare e a mettere per iscritto. La musica mi aiuta tanto, soprattutto cantautori come De André, De Gregori, Battiato, sono appunto delle colonne sonore che conciliano la scrittura senza dubbio. Ho capito. Quindi comunque il cantautorato italiano, secondo me è una risorsa che solo noi abbiamo e che non ce ne vogliono gli altri paesi, ma non si può neanche paragonare alla musica straniera. Sì. Va bene, allora Lorenzo, vogliamo avere il piacere di sentire questa tua prima poesia, che speriamo poi ci sia un seguito, poi ci metteremo d'accordo e comunque programmeremo che se tu sarai disponibile a essere ospite fisso magari il venerdì per farci deliziare con una tua... Iniziare il weekend nella piena armonia e serenità. Va bene. Con piacere. Io ti saluto e dopo la poesia poi manderemo la musica e ci rinnoveremo l'appuntamento al venerdì prossimo. D'accordo, io saluto tutti e ringrazio per l'opportunità concessa. Ok, ti metto adesso una base musicale un attimino più seriosa. D'accordo. Okay? D'accordo. Puoi andare. Un militare sull'attenti. Saluta. Il sole di maggio splende su stelle che si stagliano su un'uniforme scura, come il viso serio di quel trombettista senza spartito. Due minuti al vespro, da fiato, e sono note d'ottone che partoriscono il silenzio rispettoso, commosso, di gente assiepata ai piedi di un albero che ha un tronco di bianchi fogli di carta e foglie sempreverdi. Era il 1992, due minuti al vespro. Fu boato, furono fiamme, furono lacrime, solo di chi rimase in vita. Ci fu chi tra i morti arrivò con tre auto, una moglie e una scorta di anonimi. Fu disperazione. C'è chi adesso giunge in nave tra i vivi di questa terra che ricorda quel laico martirio. Perché siamo un'isola, ma non ci abbraccia solo il mare. C'è chi salta, chi canta, chi urla rabbia e speranza al megafono. Fu disperazione, è speranza. Il 23 maggio, un Natale pagano, un Natale civile. Vennero alla luce migliaia di figli sani, redenti da quel sangue, da quel segno rosso su un guardrail. Sono maggiorenni ora quegli eredi che lui non poté, non volle mai avere. Ultimo soffio, ultimo suono di tromba, si asciugano gli occhi e si fa largo il sorriso. La tua mattina su CRM Happy Radio è Slalom. Curiosità, consigli, notizie e tutta la musica più bella.

Slalom. Flashback. Things that held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting ourselves together, we're polishing up our act. If you've never been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want you to listen, listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. Trying to make it, they only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they're going, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We're gonna put our show together, gonna polish up our act. Well, and if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore. Well, don't you let nothing, nothing stand in your way. I want y'all to listen, listen. Cara Patrizia, ci devi dare delle notizie importanti. Sì, devo comunicare che... alcune cose. Eccole qua. Sentiamo, ascoltiamo allora, queste notizie. CRM Happy Radio, in collaborazione con ACI Sport e Rally Link, è media partner della 96esima Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia. Ullala! Allora, CRM sarà collegata in diretta dal villaggio del rally di Termini Imerese. Dal 4 giugno al 13 giugno ci sarà un'anteprima Radio Rally dalle 17.30 alle 18.30 e poi ci sposteremo il 14, 15 e 16 giugno al villaggio rally di Termini Imerese, che è situato proprio accanto all'ufficio stampa. Perfetto, quindi parteciperemo in prima persona tutti quanti. Sì, anche noi ci saremo. Ci saremo anche noi. Sì, lì in prima fila a informarvi con interviste, con comunicati riguardo la Targa Florio. E si ringrazia Kefa Motors Sport nella persona del presidente Francesco Danna per la collaborazione, per tutto. Musica italiana. Mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui, e poi mi sento un po' strana e mi trema la mano, mi manca l'aria se tu non sei qui. E pensandoci bene, se questa canzone mi parla di te, e come emozione mi stringe le vene e ferma il sangue, sai perché? Era bello mentre i nostri occhi piano si seguivano, quasi intimiditi dallo specchio che temevano. Era dolce il modo in cui piangevi quella sera, ti avrei stretto forte forte e sai che non si poteva, e sarò libera di poterti dire sarà sempre amore magico, sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male, e poi lasciarti ogni notte proprio come le zanzare e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché tu sei cosa bella e non meriti del male. Ed è bello che ora i nostri occhi sembra che si cercano, non ho più paura dello specchio che temevano. Eri dolce la prima sera in macchina al parcheggio, e ti ho stretto forte forte, ed è lì che si poteva, e sarò libera di poterti dire sarà sempre amore magico, sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male, e poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché sei cosa bella e non meriti del male. Devo dirti con estrema sincerità, di Emma Marrone mi aspettavo che fosse un carattere piuttosto forte, l'avevo vista anche in televisione tramite il programma di Amici, di della simpatica, come si chiama? Maria De Filippi, praticamente un po' agguerrita, e quindi comunque anche il fatto della sua diatriba con Belen, insomma. Allora, hai una notizia simpatica che riguarda soprattutto questa bella cittadina normanna. Da Palermo ci sono state Cefalù, perché all'inizio avevo dato una notizia di Palermo. Adesso a Cefalù è importante sottolineare che il 17 giugno Cefalù scenderà in campo. Tutti i giovani prenderanno scope, sacchi, guanti e puliranno Cefalù. E infatti è una proposta che è partita dal CAI, il club alpino italiano, e oltre a loro parteciperanno anche i rappresentanti del Bella Club e degli scout Gesci di Agorà e di Lega Ambiente. Perfetto. E parteciperà anche il sindaco La Punzina, infatti. Quindi questo sindaco è abbastanza operativo e comunque si sta muovendo nella giusta direzione per dare una maggiore ospitalità ai turisti che verranno da tutte le parti del mondo. Soprattutto sarà pulita la scogliera del molo, si partirà da lì e poi comunque ognuno potrà dedicarsi a un pezzo del proprio paese, del proprio quartiere, e pulirlo proprio. Infatti il 17 giugno è la giornata ecologica di Cefalù. Perfetto, io devo dirti una cosa, poi partiamo subito con i consigli commerciali e poi ripartiremo con la musica. Tantissimi anni fa, io avevo credo 22 anni, ero già fidanzato con mia moglie allora, e abbiamo fatto una giornata tipica da turisti, cioè abbiamo preso il trenino a Palermo, siamo venuti a Cefalù. Bello. E siamo stati quasi, dopo aver fatto il bagno, mangiato e così, siamo stati nel vecchio lavatoio che c'è proprio nel corso principale, e abbiamo un ricordo veramente eccezionale perché era pulitissimo e poi quella frescura era proprio un posto fantastico. Siamo stati, sai, da dopo le due, le tre, che c'è il grande caldo, si comincia a venire giù la stanchezza, mm-hmm. e così siamo stati un paio ore lì dentro e sono passati tanti anni, ma abbiamo sempre questo ricordo. Bel ricordo. Fantastico, di Cefalù in maniera particolare, ma di quel posto in maniera particolare ancora. E non di sei il solo, non sei il solo. Me lo dicono molti che vengono qua a Cefalù o di fuori, che comunque Cefalù gli lascia un bel ricordo nonostante tutto, che abbiamo avuto quei problemi ultimi con tutto, dai. Con tutto, sì. Però comunque dobbiamo dire una cosa, non perché voglio essere ruffiano, siete voi di Cefalù che fate star bene comunque la gente. Bene. Grazie. Grazie da parte Che bella di tutti. Sbiorinata, dai. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Slalom, flashback. We don't need no education. We don't need no thought control. No alla belli. Fine cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso questo. Eravamo questo, quello, quell'altro. Allora, io ho sentito di tutti, però questo è sicuramente un hotel che mi lascia di stucco. Il come divorce, il Barbaturco Hotel, il divorzio hotel, cioè l'hotel della separazione. Certamente gli hotel erano un posto dove uno si appartava. Sai, io mi ricordo veramente tantissimi anni fa che la Palermo Agrigento ci sono questi motel e così via. Allora uno diceva: sono stanco, mi vorrei riposare. Ed era l'occasione per scambiare due parole con la propria. Sì, stare finanziaria. Insieme, ecco. Intimità, certo. Invece qua. Però questo no. È un po' strano perché si parla contrario. Di divorzio. Sì, sì, infatti. E permettono una questi hotel permettono una separazione legale senza stress e senza inutili lungaggini. Con un soggiorno di due giorni in hotel di lusso si è assistiti da psicologi ed avvocati che prendono per mano la coppia conducendola fino a una separazione più indolore possibile. Ma scusate, se poi questa coppia usa le mani, perché comunque parecchia gente si dà botte quando si devono divorziare perché magari non sono consenzienti al 100% all'interno dell'hotel è previsto anche comunque una possibilità di recuperare i danni. Sì, certo, anche perché il costo è un po' esagerato. Non mi sembra proprio di lusso, proprio che pochino, perché si parla di 2.500 euro. Comunque è tutto compreso. Tutto compreso, quindi, certo. La separazione, anche legalmente tutti i fogli dell'avvocato, tutte le pratiche dell'avvocato. E qualche piatto rotto pure comunque. Ovviamente da sottolineare, camere separate. Ah, beh, giusto. Anche certo. Perché se ti stai divorziando, che stai a fare? Non la sopporti già o non lo sopporti più, quindi è meglio andare in due camere totalmente separate. Continuiamo con la musica, dopo aver ascoltato questa simpatica notizia che arriva da quale parte del mondo? Non lo so, ma sicuramente in America, sicuro. Beh, sì. Perché non c'è. Questa cosa se l'inventano loro, semplicemente loro. Infatti. Musica italiana, dai. Lui è il nostro caro amico Celentano. Non so più cosa fare. Cosa fare senza te, cosa c'è? Mi fa schifo anche il mare e un pochino anche te. Sento che sto precipitando dentro un acquario senza pesci, mentre una radio sta annunciando che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più camminare senza te o caffè. Sento che stai precipitando dentro la mia disperazione, che laggiù la pace ancora non c'è. Che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare. Non so più cosa c'è. Non so più cosa fare. Non so più cosa c'è. Non so più dove sono. Senza te non si sa. Non so più galleggiare. Mi fa schifo anche il mare. Sento che stai precipitando. Cosa serve? Dentro un acquario senza pesci. Cosa faccio? Mentre una radio sta annunciando. Cosa serve? Che laggiù la pace ancora non c'è. Non so più cosa fare. Non so più cosa c'è. Non so più cosa fare. po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Once in a blue moon, we'd stay out late and watch the sun come up at 5:30 in the morning. Oh, yeah. Once in a blue moon, day will surely come. One day I'll be with you. Stiamo arrivando quasi nella parte finale della trasmissione, sono le 11.24, questo è il 1° giugno 2012 e questa è Slalom. Sì. Poc'anzi lo spot diceva solo con Francesco Puglisi, no, anche ma soprattutto con Patrizia Curreri. Vabbè, soprattutto dai. Soprattutto, anche perché l'uomo cos'è senza la donna? Questo è giustissimo, guarda, dobbiamo fare proprio uno slogan così. Eccolo qua. Allora... dobbiamo dare solo... una bella notizia, oppure sì, comunque una notizia che è sempre importante, perché le notizie sono sempre molto importanti, perché ci danno l'opportunità di renderci conto di quello che succede nel mondo. Se sentite dei rumori strani in sottofondo non vi preoccupate, perché stiamo sistemando alcune cose dall'altra parte. Partiamo subito con la notizia, dai. Sì, allora ci sarà un'estate ricca di musica, ci sono molti concerti sparsi per tutta l'Italia, allora, tra i quali ci sarà uno dedicato al jazz e uno al rock e al metal, ma anche a ospiti, artisti di vario genere, sì, di americani ma anche italiani come Malika, Giorgia e Laura Pausini. E ricordiamo, per l'occasione 5 luglio ci saranno i Red Hot Chili Peppers, che noi già sentiamo. Sì. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks in Fayetteville. It'll come true. Radio Hall Silly Peppers con Look Around. Yes. Patrizia, cosa ci dice? Non ti amma. Ti sei dimenticato di nuovo di me. Sempre, sempre. Praticamente c'ho questa manina un pochettino bizzarra che abbassa comunque il volume all'interno di questa sala regia. Allora, sì. Altra notizia curiosa che arriva praticamente dal mondo delle costruzioni. Di cosa dice sì. questi? Un francese, Emily Liray, è stato il protagonista indiscusso di una storia da film. Praticamente si trovava in un deserto e non poteva, a quanto pare si è rotta la macchina, una Citroen, e l'ha trasformata in una motocicletta. Beh, comunque non è male come invenzione, sì, vera e propria. È stato 12 giorni, però come alla fine si suol dire, diciamo, la necessità ha sviluppato l'ingegno. Ma chissà come aveva fatto. You make me feel good. You make me feel safe. You make me feel. Slalom. Flashback. Questa canzone, vero? Bella, bellissima. Dai. Del resto noi giriamo di qua e di là e facciamo in modo che la gente sia sempre accontentata per la musica che proponiamo. Tutti i gusti, musica per tutti i gusti. Attuale, musica un po' di qualche annotto fa e comunque la musica che comunque anche voi ci richiedete. 0921 92 32 92 335 56 37 251 oppure www.crmhappyradio.it. Carina questa notizia che stai per dare, questa della il peggio delle TV e delle donne comunque in televisione, nulla togliendo le donne in radio sono un attimino migliore. Figurate che io apprezzavo molto di più la Federica Ponicucci quando era in radio, vero, che non quando ha cominciato a fare televisione. Fra le altre cose si è cambiata radicalmente, si è tirata, si è fatta più giovane quando ha iniziato a fare Portobello, penso un po'. Federica Ponicucci, la prima esperienza avuta è stata proprio con il famoso Portobello del mitico Enzo Tortola. Allora, leggiamo un pochettino questa notizia, leggi questa notizia, fra le altre cose la gente oltre ad ascoltare potrà avere l'opportunità a questo punto di vederti, ammirarti, perché dopo che Angelo ci ha spiegato un po' le dinamiche di come vanno, perché giustamente noi diciamo nei vari spot CRM e Happy Radio, la radio che potete anche sentire e vedere soprattutto, invece noi mettiamo solo ed esclusivamente la musica, senza curarci e nemmeno dedicarci due minutine ad imparare come si muovono un po' queste telecamere. Del resto siamo dove ci giriamo ci sono telecamere, Grande Fratello, è così, il regno sovrano su tutto. Va bene, allora a proposito di Grande Fratello, infatti è stato uno dei programmi premiati, però come uno dei programmi, il peggior programma dell'anno 2012, cosiddetto Telerattone. Ma la cosa, la cosa strana, scusami se ti interrompo, che comunque sono presenti delle persone, che dei personaggi, molte donne fra cui Belen, sì, Panicucci, Barbara D'Urso, Simona anche Ventura fra le altre cose. Allora spieghiamo meglio, il Teleratto è il premio della peggior TV del sito di Davide Maggio, vengono premiati alcune appunto persone dello spettacolo per le loro performance in TV di questo anno che stiamo vivendo, sì, sì, 2012. Ma altre cose, le cose peggiori che abbiamo sì, visto. Sì, ecco, praticamente Belen Rodriguez si è giudicata due premi come prezzemolino dell'anno. Sì, effettivamente è stato ovunque. Sempre dovunque. Poi la cosa più carina è stata nell'ultima trasmissione di Amici, che c'era lei e la Emma, sì, che praticamente si dividevano, sì, il fidanzato, diciamo, infatti questo. E per le ultime parole famose ha anche avuto il, perché naturalmente il gossip di Belen lo sappiamo tutti, poi c'è Barbara D'Urso e Simona Ventura e Federica Panicucci. Volevo allora, dirti una cosa a proposito della Belen, sì, che quella farfallina è stata, diciamo, praticamente registrata come marchio fra altre cose, ma anche l'indumento intimo che si vedeva, ha c'era fatto comunque successo. Un bel business dietro, sì, molto successo, infatti. Allora, Barbara D'Urso è stata premiata con personaggio peggiore dell'anno e per Baila, per Pomeriggio 5, che è stato quel programma che ha avuto molto... Ma credo che sia durato anche poco, pure. Sì, sì, appunto, sì, perché è stato un flop praticamente. Mm-hmm. E poi Federica Panicucci per Domenica 5. Simona Ventura invece per il programma Simona Goes to Hollywood, che è stato trasmesso nel digitale satellitare. Sì, e Tamar Raid, di Fiammetta Cicogna come peggior programma di intrattenimento. Abbiamo detto appunto Grande Fratello, poi come un maschio c'è pure, e Valerio Scanu, che ha trovato in due categorie: scostumato dell'anno, ovvero il peggior vestito, sì, è Twitterratto. Peggior VIP su Twitter. Sì. E poi anche come programma di 7 Gold c'è il processo di Biscardi, non si può sentire. Il processo di Biscardi oramai, ma del resto è partito da Rai 1 e finito adesso a 7 Gold. 7 Gold, che è una, infatti, va scendendo. Ma sempre più si è scendendo. E però... poi, non dimentichiamo, c'è un altro premio, che è il peggior momento TV, cioè i 5 minuti da dimenticare, e aggiudicati a Pupo con la sua performance con Adriano Celentano al Festival di Sanremo, quando hanno fatto quella specie di quella scenetta che recitano, praticamente, non lo so, sembrava di scuola, non si capiva veramente bene cosa stassero facendo tutte e due. Bah. Sì. Comunque, dico complimenti alle donne della televisione, io devo essere sincero, la Federica Panicucci l'ho sempre apprezzata come speaker radiofonica, del resto è sposata con il nostro conterraneo, lui è originario di Ragusa, e lo apprezzavo moltissimo quando lei era in Radio DJ. Adesso in televisione mi sembra un pochettino, ma anche il programma che conduce non è appunto ottimo. Ma dico anche un'altra cosa, che non vuole essere proprio un sapientone, cioè nel senso che comunque ci sono tanti programmi che vanno bene in radio, cioè tanti personaggi che vanno bene in radio, vedi Amedeos, vedi anche la Panicucci, vedi ora c'è anche la Brescia, anche Alessandro Greco, che vanno benissimo in radio, in televisione non riescono, come si suol dire, a bucare la TV, e quindi praticamente fanno dei programmi, sono dei flop, e poi ritornano a fare il primo amore, che è quello della radio. Continuiamo con la musica, dai. Lui è Cesare Cremonini, lo sentiamo già in sottofondo con una canzone intitolata Il comico sai che risate. Sono stato anche normale in una vita precedente, ma hanno chiesto che sai fare, so far ridere la gente, meno male. Che non

destino. Fermare gli occhi in un istante e poi sparare in mezzo al cielo. Il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore che ora bagna la tua schiena. Abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno. Slalom. Flashback. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched them make you stop. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You see that I can carry the burden of pain. Cause it ain't the first time that a man goes insane. Patrizia, lo sai che sono le 12.08 minuti primi? Devo dirti con estrema sincerità, quando facevo il programma, che ero praticamente quasi da solo, sì, era molto bello perché a me piace la musica, mi piace questo rapporto via telematica, via tutto con i nostri ascoltatori, però comunque la presenza di un'altra persona in radio ti permette comunque di scambiare anche qualche opinione, parlare, commentare fra le altre cose anche le notizie che andiamo spulciando, che tu personalmente spulci tramite internet e così via, tra cui quella che... Sì, abbiamo parlato di Alisa Morissette all'inizio perché oggi fa il compleanno. 38 anni. Abbiamo fatto i calcoli prima poco. Perché se no saremo qui a dire. Perché l'hai fatti tu, perché io matematica. Allora, praticamente Morissette ha dato notizie del fatto che, dice, alletterò mio figlio fino a 6 anni. E infatti c'è stato un bel po' di scandalo, tra virgolette, per una copertina del Time, dove ha ritratto una 26enne che allattava un bambino di 4 anni. La cantautrice appunto afferma nel Good Morning America: io lo farò fino a quando mio figlio Ever avrà 6 anni. Beh, io credo che non ci vogliano dei limiti. Quando il bambino avrà voglia di accostarsi al seno materno, io credo che non debba essere. Poi sai, lì è un discorso di donna, cioè nel senso che sì, la donna che allatta ha un rapporto eccezionale col proprio bambino, però un po' si rovina il seno, si rovina tante cose, ma soprattutto si rovina il sonno, perché il bambino che... Dipende, perché ci sono quelli che dormono tutta la notte e quelli che invece... Beh, sai, allora il bambino, mi diceva comunque delle persone che hanno allettato, le amiche mie che hanno allattato, diceva che comunque alla fine il bambino lo prende più come una tettarella che non il mangiare della papà, è proprio un accostamento alla mamma e sentire proprio il calore materno. Allora, a proposito di queste, diamo onore comunque alla Morisette, che ha deciso di allattare suo figlio fino all'età di 6 anni, e che e quindi ascoltiamo una canzone di lei che sì, veramente... e ancora tanti auguri. Brava. Look at us break our bones in this kitchen. Look at us rallying all our defenses. Look at us waging war in our bedroom. Look at us jumping ship. Credo che sia giusto parlare anche di questa notizia, ma soprattutto perché nell'evoluta America c'è anche una notizia che ci fa riflettere, che comunque non è così tanto evoluta e ci tengono anche a determinate cose. Dimmi, Patrizia. Infatti, passiamo da Liz Morissette, che tiene ancora fino a 6 anni suo figlio in grembo, e invece la Barbie umana Sarah Barg, e invece vuole regalare alla figlia per il compleanno una liposuzione e un seno nuovo. Ma la figlia ha 8 anni. E quindi la cosa che ha, perché questa era ospite di una trasmissione, il conduttore Anderson Cooper, che vanno i nostri complimenti, l'ha si è detto disgustato e soprattutto l'ha invitata ad abbandonare lo studio. Complimenti, sì, al conduttore e soprattutto complimenti a, a questo stato americano che sembra evoluto e così via, ma comunque ci tiene molto a determinati Slalom Flashback. Sei o non ci sei? Sì, ci sono. Ci sei, batti un colpo. Ecco perché le donne vivono più dei mariti, no? Sì, va bene, parliamo infatti, dopo, dai. Infatti. Prima Madonna con Girl God Wild. It's so hypnotic. Yeah. Perché le donne vivono più dei mariti. L'avevamo detto prima. Sì, infatti, lo ripetiamo magari per chi non ci ascoltava prima. E infatti la nostra psicologa amica, dottoressa Francesca Santarelli, ha decretato appunto che le donne vivono di più. Perché? Perché? Perché? Perché? Perché fanno più cose rispetto ai mariti. Ora qua c'è... ci sarà sicuramente chi non sarà d'accordo. Non sono molto d'accordo, BTN. Perché qua ci viene premene... presentata una storiella, praticamente quando la donna... C'è una bella spirastrocca comunque. Sì, sì, prima di andare a dormire, dopo si guarda la TV, dice sono stanca e tardi, penso che andrò a letto. Invece, anziché andare a letto, va in cucina, sistema i panini per i bambini, prepara la colazione, stira, fa tante cose, quello che dovrebbe fare anche tutta la giornata. Invece il marito, prima di andare a letto, va in bagno, fa i suoi bisognini... Poi dà un'occhiata allo specchio e pensa... che si gratta il sedere... No, non volevo sottolinearlo. E mentre dà un'occhiata allo specchio pensa... Che... Domani devo fare la barba e senza altri pensieri va a dormire, quindi... Niente di strano. Ora chiedetevi perché le donne vivono più a lungo, perché sono fatte per i percorsi lunghi. e non possono morire prima, questa è pazzesca, e non possono morire prima perché prima hanno molte cose da fare. Eh beh, sicuramente questo non è male. Bello però. Bello, bello, dai. Ma io in parte sono d'accordo e in parte no, perché io comunque a casa faccio tante cose, quindi ho la speranza di durare anch'io tanto, allora, di campare tanto. Meno dai. Male. I'd been walking around with my eyes on the floor, but now you're everywhere to me. You're every face that I see. Things ain't moving quick enough for me. I guess I've been running around town, leaving my tracks, burning out rubber, driving too fast. But I gotta slow. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down

Slalom. Flashback. Indietro col tempo questa canzone delle Spice Girls. Si pensa che io sentivo questa canzone quando passava il traforo del Monte Bianco. Sono andata nel 98, sono andata a Chamonix, lì, questi posti qui. Quindi mi ricorda questi momenti. No, anche perché io devo dirti con estrema sincerità, io ho tanto file musicali e non mi ricordo un po' tutti come iniziano. Quando io ti ho fatto in preascolto ascoltare questa canzone, ti ho detto, beh, stare come voglio sentire, così via. Anche un po' ricordi la mia adolescenza. Beh, ancora sei giovane, dai. Adolescenza. Che dovrei dire io? Che sono un veramente remoti i miei ricordi dell'adolescenza. E a proposito di adolescenza, sì, poc'anzi avevi dato un accenno alla notizia che adesso leggerai e che ci delizierai per dire cosa dobbiamo fare con questi bambini. Dobbiamo studiare. È un argomento un po' che soprattutto in questi giorni si riaccende di nuovo, perché comunque è giusto dare compiti ai bambini per la vacanza oppure no? Ma quello che ti stavo dicendo poc'anzi, da genitore dico io che è sempre meglio dargli una leggera spolverata, cioè nel senso non deve essere un impegno costante, però dico è giusto che comunque si lasciano al riposo, non a al 100%, al 99%, una volta ogni tanto, magari. Sì, una volta magari verso la fine, perché comunque si devono riposare, perché già è lo stress tutto un inverno. No, ma ti devo dire con estrema sincerità, tu lo vedrai anche, tu lo saprai comunque, e come lo sanno anche tanti altri nostri radioascoltatori, che in questo periodo i bambini hanno la parabola discendente, cioè sì, tra il caldo, tra il fatto che comunque vengono distratti dalle giornate lunghe, quindi vogliono uscire, vogliono stare comunque fuori casa e così via, cominciano ad allontanarsi leggermente dai libri. Sì, poi bene? Qua abbiamo la distrazione anche del mare, quindi figurati. Comunque, al di là dei nostri, comunque delle nostre opinioni, la tata Francesca, che abbiamo detto appunto famosa per la sua partecipazione al programma di Verissimo, dice che è importante che la vacanza sia vacanza. Vacanza significa assenza di qualcosa, e questo qualcosa in questo caso è il lavoro, ossia la scuola, riferita ai bambini. Quindi i bambini in questo periodo devono essere liberi di non fare nulla, di disintossicarsi dai compiti, dai doveri e dalle attività. Spazio perciò alla noia e all'ozio, perché la noia è spazio creativo. Bene. Comunque dico che credo che siamo d'accordo un pochettino in linea di massima, perché comunque dà l'opportunità di farli riposare e poi piano piano con le giuste punte delle dita farli cominciare a riportarli piano piano verso i libri. Musica, dai. Vai. Sono le 12.47 ed è adesso arrivato il momento giusto per preparare da mangiare. E carta e penna soprattutto. Carta e penna, e abbiamo in diretta telefonica il nostro caro amico Alessandro Refice, che ci delizierà di una sua ricetta. Ciao Alessandro! Ciao! Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Adesso è già un po' di tempo che non ci si sente. Come stai Francesco? Bene, bene. Tu come stai? Abbastanza bene, grazie. Le tue esperienze dalla città di Palermo, fuori porta, come stanno andando? Tutto a posto? Beh, ti dico, qui adesso c'è un'invasione di turisti. Qua chiaramente in focacceria trovano chiaramente un posticino dove venire a gustare qualcosa di tipico siciliano, e quindi cerchiamo di accontentare tutte quelle popolazioni che con piacere ci vengono a trovare da fuori. Cerchiamo di fare innamorare questi turisti ancora di più della nostra bella terra. Decisamente sì. C'è Patrizia dall'altra parte che ti saluta. Ciao. Ciao Patrizia, come stai? Tutto a posto. Bene, benissimo. Aspetto la tua ricetta con molta... Come ti dissi l'altro giorno, perfetto, Patrizia si è innamorata delle tue ricette. Benissimo. Quindi puntualmente ha spulciato fra le altre cose tramite il nostro sito internet delle ricette che tu nel corso delle altre trasmissioni hai dato, e quindi lei va trascrivendole proprio perché apprezza in maniera notevole le tue ricette. Grazie infinito Patrizia, presto ti darò il numero di Gourmet, che è praticamente una rivista dove da qui a breve prenderò parte rilasciando anche lì delle ricette, ed è una rivista a carattere nazionale molto interessante. Da lì potrai spulciare da me e tanti altri colleghi delle ricette realmente interessanti, che vanno dalla cucina tradizionale alla nouvelle cuisine, che poi è quella che è un po' la tendenza che al momento ci sta prendendo un po' tutti. Bene, poi ti verrò a trovare, come dicevo poc'anzi. Benissimo. Vediamo un po'. E allora, oggi invece vi voglio proporre qualcosa di molto interessante, veramente stuzzicoso al massimo, nel senso che è un piatto che si può proporre sicuramente come antipastino, che è da proporre nelle nostre finger food, quando noi andiamo a proporre dei banchetti dove chiaramente ci sono tutti questi micro assaggini, e perché no servirlo anche come secondo. Stiamo parlando delle polpette di pesce spada. Chiaramente in funzione della reale tipologia d'utilizzo, noi andiamo a fare della dimensione insomma che più ci interessa, quindi nei finger le proporremo più piccole, come secondo le andiamo a proporre un po' più grandette, ed sono di una facilità incredibile. Credo che ormai tutti hanno un robottino da cucina in casa, no? Sì, sai, questo mixer insomma molto pratico. Basta andare a mettere all'incirca 500 grammi, chiaramente ti do delle dosi da scorpacciata, non da assaggino, chiaramente diciamo, poi da lì andrete un po' a modificare voi. Ok, non da stomaco vuoto. Ecco, esattamente. Andiamo a prendere 500 grammi di pesce spada privato sia dell'osso centrale che della pelle. Lo taglieremo a pezzettini, a tocchetti, e lo andremo a porre dentro questo robottino. Andremo a prendere una cipolla intera, la scorza di un'arancia, all'incirca una ventina di foglioline di menta e un ciuffetto di prezzemolo, tutto chiaramente intero. Andiamo a mettere del sale e del pepe e un paio di cucchiai di parmigiano reggiano. Mettiamo tutto dentro questo mixer, lo facciamo partire. Quando il composto sarà ben omogeneo, andremo ad incorporare due tuorli d'uovo. Mi raccomando che siano soltanto i tuorli, molto molto importante. Servono a legare e a mantenere il composto abbastanza soffice. Inoltre andremo a mettere, tagliate molto molto finemente, quindi a dadini molto piccoli, 8 fette di pan carré. Lo andiamo a privare della parte un po' più colorata, che è quella esteriore, quindi manteniamo solo il bianco, e andiamo ad incorporare il tutto. Otterremo un composto molto soffice. Da lì, facilissimo, andiamo a creare delle sfere che possiamo proporre tonde, le possiamo proporre un po' più schiacciate. È importante, ecco, da dire che con lo stesso impasto si possono proporre gli hamburger di pesce spada. Queste sono delle trovatine che comunque a casa, anche per chi che ha bambini, perché magari tante volte gli proponi la fetta di pesce spada e cominciano a fare i capriccetti, provate a fare una cosa del genere, che vi faccio vedere che i bambini mangeranno anche il piatto. Bene. Comunque, detto questo, andiamo a passare chiaramente le nostre polpettine in olio molto caldo, le andiamo a friggere, e poi intanto possono essere servite sia così tradizionalissime fritte, e inoltre possiamo anche andare a realizzare una salsetta eseguita con del pomodoro, delle passoline, dei pinoli, della menta, del sale e del peperoncino. Una salsa che poi alla fine noi la facciamo così scioè molto velocemente. Servirà ad incorporarvi dentro le nostre polpette, e servitele molto molto molto calde. È un piatto, ripeto, molto molto profumato, ma nello stesso tempo è chiaro che sia una di quelle ricette che abbraccia sicuramente la nostra tradizione, però un po' con innovazione, se vogliamo, perché è più comune da sentire la polpetta di sarda. Noi l'abbiamo fatto un po' più raffinata col pesce spada. E con ciò vi dico anche che si può eseguire con tanti altri tipi di pesce, ma magari più avanti, risentendoci, ve ne proporrò delle altre tipologie. Tutto qui. Ok, io ti ringrazio Alessandro, sicuramente ti ringrazia anche la nostra cara Patrizia. Ringrazio voi due, vi do un abbraccio a te e a Patrizia e a risentirci presto. Grazie, ciao Alessandro, presto. In bocca al lupo per tutti. Ciao, buona vita, ciao. Patrizia, abbiamo da ricordare anche il discorso della Targa Florio, sì. Dove ci sarà la diretta su CRM e Radio a partire praticamente dal 4 giugno fino al 16 giugno saremo proprio. Ci saranno dal 4 al 13 saranno gli aggiornamenti nel pomeriggio su un'anteprima rally e poi dal 14 al 16 saremo in diretta direttamente da Termini nella postazione. Perfetto, saremo insieme, faremo questa trasmissione, interverremo, sì. Tu fra le altre cose avrai anche il compito di intervistare i piloti della Targa Floyd. A questo punto sono le 12:57, mancano 3 minuti alle ore 13. Io vi saluto e i nostri radioascoltatori, saluto anche te, ringrazio di averci seguito. L'appuntamento è rinnovato a lunedì dalle 10 alle 13 circa e ci vediamo lunedì. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì. Buona continuazione. Buona continuazione con i programmi di CRM. Vi ricordo comunque una cosa molto importante. Che cosa? Che cosa? Che ci potete... Stasera c'è praticamente stasera Rock Revolution. Mi raccomando, alle 21 non mancate. Con i fratelli, io li chiamo i fratelli Brancato, i Rock Brothers, come i Blues Brothers. Quel programma. Ok, dai, buon fine settimana a tutti e buona vita. Ciao Patrizia, ci vediamo. Ciao Francesco.